Good evening, fellow. Okay, so I'm just introducing what we already say now, that we know now, you already spoke in this radio on the last demonstration that take place the 22nd of March in San Ferdinando, no, close to Rosarno. And so if you can explain to us what's going on there, how you're organizing, maybe since I think at the beginning of the year, starting from the 6th of February, and which are your goals? On the 6th of February, we make a demonstration, and the demonstration was about our working situation and also our accommodation and also our documents, which our documents was the main problem. And during the demonstration, we met the professor and some elders of the area, San Fernando, and they promised us a lot. They make a promise on the line. They make a promise that they will do our documents for us, and also they will make our promise of our accommodation. We waited until the 26th of February. There wasn't any sign of improvement, so we made another demonstration. Okay, thank you. I translate and then we continue. Yeah. Quindi quello che gli ho chiesto io all'inizio è stato appunto riraccontare un po' quello che sta accadendo nella piana di Gioia Tauro, ma in particolare nella tendopoli di San Ferdinando vicino a Rosarno, a partire dall'inizio dell'anno. E come lui stesso ci racconta, il primo momento di lotta è stato il 6 febbraio, quando diverse centinaia di persone sono uscite in strada dalla tendopoli e sono con un blocco che è durato diverse ore, sono riusciti poi ad avere l'attenzione e del prefetto, che si è precipitato appunto a San Ferdinando, e di varie istituzioni locali. Le loro richieste sono sempre le stesse, sicuramente il lavoro e le condizioni lavorative, che passano anche attraverso le condizioni abitative, ma la prima richiesta anche qui, anche in Calabria, è sempre la stessa, ovvero i documenti. Durante quell'incontro dello scorso 6 febbraio le varie istituzioni hanno promesso tante cose, passando per il minimo, ovvero ripristinare la luce in quello che è uno dei primi ghetti di Stato, che è la tendopoli di San Ferdinando alias Rosarno, e così come su tutto il resto, ma per ora sono rimaste soltanto promesse, per quello si è continuato a mobilitarsi. Ok? So during our second demonstration, we also met some elders of the area, and they also we told them our problem. They told us that they will meet us. And during the meeting, we told us that we'll meet them on the 11th, but it wasn't up to the 11th. The professor told us we should meet him. So we met the professor later, and he said to us that the accommodation, he told us about the accommodation issue, but actually our problem is the document issue, and the document issue, he postponed it to on the 13th of this month. So on the 30th, which is the next week, we shall meet him, and that's why we discuss about it. But coming to think of it, everything is getting worse and worse in this place, especially our documents. When you go to the Questura right now, everything is worse more than before. Now they don't receive any documents, nothing is moving. Our accommodation, everything, the light, what, even water is very big problem in this place, which makes us make another arrangement for demonstration on the same day that you meet the professor. So on the 13th, there will be another demonstration, and at the same time, we shall meet the professor and see whatever they have for us. Ok, thank you, I'm gonna translate. Quindi dopo il primo incontro del 6 febbraio, dove anche lì sono rimaste parole, le persone si sono riorganizzate, e il 22 marzo, come è stato già ricordato, sono scese nuovamente in strada, anche lì dopo un blocco hanno riottenuto l'attenzione sia delle autorità locali, ma soprattutto un incontro altro che si è succeduto nei giorni successivi con la prefettura. La questione ovviamente messa sul piatto è sempre la stessa, ovvero l'accesso ai documenti, e con documenti poi appunto si intende permesso di soggiorno, residenza, passaporto, cose che in parte sembrano scontate e che sono rimaste in sospeso, e da lì il lancio alla giornata di lotta del prossimo 13 aprile che, come appunto è stato detto adesso, vedrà due momenti, cioè in contemporanea a questo incontro che probabilmente si terrà sempre a Reggio Calabria, in contemporanea a San Ferdinando le persone in tendopoli stanno organizzando un'altra mobilitazione, anche perché la situazione è peggiora sempre di più. Veniva riportato l'esempio della questura del vicino commissariato di Gioia Tauro che è assolutamente bloccato e non vengono più date alcun tipo di informazioni e risposte alle persone che costantemente sono costrette a recarsi là sotto. Okay. So right now, our decision is to make another demonstration, because most of the things, everything, not most of the things, almost everything is getting worse. Previously, the documents, they were doing it for people, but right now, it seems nothing is moving. I've been there for 4 weeks, 4 good weeks. People have been there for 5 weeks, but to me, I've been there for 4 good weeks. I've not been able to submit my documents for renewal. So this means a lot of things are getting worse. And for this reason, we are calling everybody that can help us to make the demonstration to achieve what we need. Because it's our right to do, to get whatever we need. Whatever they have to give us is our right to get it. So they need to give us. And we are calling a lot, any organization, anybody that thinks that they can help us to achieve whatever we need from them, they should come and help us on the 13th of this month, for us to make this demonstration and get whatever we need from them. Ok, I translate. Quindi l'invito appunto è proprio anche qui a unirsi a un'altra giornata di lotta, la prima nell'ordine rispetto alle altre, la prossima settimana, il 13 aprile, perché la situazione è appunto disperata e questa è una lotta per la propria vita, per migliorare la propria vita che è bloccata appunto. Passano settimane intere soltanto per provare ad essere ascoltati da qualcuno dentro qualsiasi questura. Questo non accade tra l'altro soltanto a Gioia Tauro, ma in tutta Italia, quindi la vita delle persone è assolutamente sospesa e in mano a questi meccanismi. Quindi l'invito molto sentito è di venire anche qui nella lontana San Ferdinando, se non altro lontana da qui, per il 13 aprile in mattinata, questa per unirsi a quest'altra giornata di lotta. Okay, can I, yeah. I don't know if you want to say something else, but... No, if there's anything you want to ask, you can ask. Okay, we would like to know, because as you say at the beginning, now there are different issues, no? Why you're pushing, yeah. And first of all, documents, okay? Yeah. Even the other people that talk before you from Potenza, from Foggia, they put on the table, this is the first issue of our struggle. But on the other side, we know very well that even there are problems with housing, and especially in the Tendopoli of San Ferdinando. So if you can explain to us what's going on there, which are the plans of the government about that area? Yeah. Thank you. Right now, the people over here are about nearly 1,500 or more than 1,500. And you were there the other day. We met the man. He told us that they can provide only 600 people houses. And in fact, it's not enough, because the rest, where are they going to live? Out of the 1,500, we are going to give 600 people. The 900 remaining people, where are they going to live? This is a big problem. And houses are also becoming a big problem in this place. And even though the houses is not enough for us, because it's not the best solution for us, because it's obvious that they can't provide all of us houses. So it's better they provide us the document so that we can go away. I hope you understand. Mm-hmm. If they give us houses, if they give us documents, most of the people will go. They will not leave here to be waiting for houses or something like that. And the documents, they are not giving it to us, especially at this time. At this time, it's very crucial because they are not receiving any application. And they are directing us, the most bad thing is, they are directing people to go to CGL, or I don't know what their name is, and submit our application over there. Meanwhile, that place is not Questura. Mm. I hope you understand. Yeah. I think I understand. You're talking about organization like CGL that they are... No. Now, if you go to the Questura will tell you that take your documents and submit it to CGL. Ah, okay, I understand. Yeah, this is what is happening in the Questura. Okay. Okay, I'm going to... I don't understand, because the Questura does not renew a CGL does not renew a document. So why should I submit my documents to them? Okay, I understand now. I'm gonna translate. Okay. Quello che ho chiesto prima, appunto, partendo dal fatto che sappiamo come a Potenza, come a Foggia, l'importanza della prima richiesta delle tante persone non italiane, così, che si trovano purtroppo, per fortuna, a vivere in Italia, a passarci, è quella dei documenti. E quello che gli ho chiesto però è anche di parlare della situazione abitativa che lui aveva accennato, in particolare rispetto alla tendopoli di San Ferdinando dove lui si trova adesso. E quindi quello che ci ha raccontato, appunto, a parte descrivere il fatto che della tendopoli ci sono circa 2500 persone, quindi è un insediamento abitativo enorme, e che, come è stato detto, più che altro si è andati a prendere, diciamo, l'informazione anche con queste dimostrazioni, manifestazioni che ci sono stati, proprio perché nessuno ha mai spiegato niente alle persone che lì si trovano a vivere, che questa tendopoli verrà presto distrutta. L'alternativa è un'alternativa misera, ovvero l'ennesimo campo di lavoro, questa volta in stile, appunto, con le tende, a differenza di quello che sta accadendo in Puglia, e soltanto per 600 persone, aggiungo, provviste di documento, quindi dove ci deve essere, appunto, una tracciabilità di chi sono le persone che entrano e escono. E ovviamente, come ci sottolineava lui, questa non è prima di tutto una risposta che soddisfa i numeri incredibili. Se la matematica non è un'opinione, 1900 persone ne rimarrebbero escluse. Dall'altra parte c'è anche un tema, che non si tratta di case ma appunto di tende, quindi perché andare a vivere in una tenda? Ma diciamo, proprio per richiudere il discorso, se si avesse l'accesso ai documenti, e quindi molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, molte delle persone che là sono costrette a stare se ne andrebbero via. Quindi la prima richiesta passa proprio per quello, perché almeno lì, dice, io posso decidere dove andare e non devo chiedere una casa. E poi c'è stato questo, diciamo, ritorno a raccontare un po' com'è difficile la situazione rispetto ai permessi. Appunto, abbiamo, c'è questo commissariato che è andato completamente in tilt, pare, soprattutto nelle ultime settimane, e addirittura demanda, con stupore ovviamente di chi si trova a stare lì, le persone, le invita, cioè demanda parte del suo lavoro, sembra, alla CGL, così è stato detto, senza anche qui si ripete un po' lo stesso meccanismo, le persone vengono spostate, indirizzate, senza nessun tipo di spiegazione. Ok? Ok. So, any question? Ok, no, I think that you say everything. So, thank you very much to talk with us today, and of course we let's keep in touch, because we have to spread the voice to join everybody to your struggle, because even our struggle. So thank you very much. Thank you too. Thank you very much. Grazie. Ciao ciao. Ciao.